Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Il Presidente del Consiglio Conte alle categorie, in arrivo gli indennizi economici già oggi in Consiglio dei Ministri con il decreto ristoro. Continuano le manifestazioni contro le chiusure, oggi tassisti in piazza a Roma, domani la protesta nazionale dei ristoratori. Violenze e disordini nelle manifestazioni serali nelle città, in azioni ultra, minori e gruppi sparsi. Ieri sera a Milano il bilancio più pesante, un ferito e 28 fermi della polizia. Contagi record in Russia, oltre 300 vittime in un giorno, il dato peggiore dall'inizio dell'epidemia. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dovrebbe dunque tenersi già oggi il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno il decreto ristoro, con tutti gli indennizi per le categorie economiche colpite dalle misure restrittive del DPCM che è in vigore da ieri. Lo ha confermato oggi il Presidente del Consiglio Conte, mentre continuano e si annunciano nuove proteste in tutta Italia contro le chiusure. I commercianti della ristorazione saranno in piazza domani in 10 città capoluogo per protestare contro le chiusure alle 18, oggi pomeriggio a Roma, taxisti davanti al Ministero dell'Economia. Il Premier Conte in videoconferenza con le associazioni di commercianti e artigiani ha confermato che sarà approvato oggi pomeriggio il decreto legge con i ristori per le categorie colpite. Sul piatto oltre 4 miliardi e mezzo con contributi a fondo perduto compresi tra il 20 e il 40% della perdita di fatturato. Il 40% dovrebbe andare a chi ha dovuto chiudere in base al DPCM, piscine, palestre, cinema, mentre al 30% dovrebbe essere l'indennizzo per bar e ristoranti. Tra le categorie indennizzate anche taxi ed NCC. Nel decreto anche la proroga della cassa integrazione Covid e del blocco dei licenziamenti, ma è ancora da definire per quante settimane. Il segretario della CGIL Maurizio Landini questa mattina all'Assemblea Lega Coop. Noi domani avremo questo incontro con la Presidenza del Consiglio e non vogliamo solo discutere di ammortizzatori sociali, di blocco dei licenziamenti, ma vogliamo proprio che si riapre un dialogo con le parti sociali, oggi più che mai necessario per progettare il nostro futuro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le proteste, avete sentito, in queste ore riguardano ristoratori, titolari di palestre, attività sportive, commercianti che saranno in piazza ancora nelle prossime ore. Diversa la situazione per quanto riguarda invece le manifestazioni della sera in alcune città, anche in violazione del coprifuoco, che hanno portato a scontri con la polizia. Il bilancio più pesante si è avuto a Milano ieri sera, dove 28 persone sono state fermate dalla polizia. Ci sono i capi ultra di estrema destra e i ragazzini di periferia minorenni tra gli arrestati a Milano dopo i violenti scontri di ieri sera nella protesta contro le misure anti-Covid e il nuovo DPCM. Delle 28 persone denunciate, 13 sono dunque minori con piccoli precedenti, 10 sono stranieri. Le accuse vanno dal danneggiamento alla violenza pubblico ufficiale. Sono alcuni dei 300 scesi in strada in corso Buenos Aires, una strana compagine dove ai cori da stadio si mescolavano slogan già sentiti nelle banlieue parigine, una miscela simile anche a Torino, dove diverse vetrine sono state distrutte e negozi di alta moda saccheggiati. 10 le persone arrestate e decine di denunce che vanno dal furto aggravato al danneggiamento, bombe carta e nessun simbolo o bandiera per questa guerriglia che approfitta della protesta dei lavoratori e genera scontri che preoccupano il Viminale, che già da giorni ha fatto partire un'allerta forte per prefetti e questori, un richiamo a vigilare sulle manifestazioni che rischiano di degenerare per infiltrazioni di gruppi professionisti dello scontro, si legge. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulle proteste, su cui torneremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno per capire quali sono le possibili ricadute di questa situazione, sentiamo intanto l'analisi di Daniele Biacchessi. Da Napoli a Roma, a Milano, Torino, Trieste, monta la protesta contro le ultime misure anti-Covid-19 prese dal governo a guida Giuseppe Conte e dai presidenti di Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte che hanno messo in campo lockdown, notturni. La violenza si è sprigionata d'improvviso con cortei non autorizzati, incendi, lanci di molotov, guerriglia urbana. Gli obiettivi degli organizzatori erano dichiaratamente le sedi delle regioni e luoghi istituzionali. Ma nella storia degli scontri di piazza tra manifestanti e forze dell'ordine in Italia e nel mondo, di spontaneo c'è sempre stato ben poco. In mezzo alla nebbia dei fumogeni e dei lacrimogeni si sono visti dirigenti e simpatizzanti di Forza Nuova e di altri gruppi di destra, capi ultras di calcio e leader di Potere al Popolo, cittadini comuni arrabbiati. Sarebbe superficiale ridurre questa protesta in un'azione di pochi violenti. Si tratta di un malessere diffuso, al momento solo in parte organizzato, ma che potrebbe trasformarsi a breve in una vera e propria rivolta sociale, come accaduto in altre parti d'Europa. Sono segnali da non sottovalutare. Le misure dell'ultimo DPCM provocano divisioni anche all'interno della maggioranza, con il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che ancora oggi chiede di allentare la stretta, chiede modifiche a queste misure, mentre anche dall'opposizione la Lega annuncia ricorsi al TAR contro il nuovo provvedimento. Torna a difendere le misure anti-Covid dell'ultimo DPCM. Il presidente del Consiglio Conte: erano necessarie e non sono in discussione, piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza, dice il Premier, che invita tutti a marciare nella stessa direzione per non aggravare la situazione. Sulle nuove misure la stessa maggioranza resta però divisa. Nonostante l'altolà arrivato dal Partito Democratico, il leader di Italia Viva Renzi oggi ribadisce di essere contrario alle chiusure di ristoranti e luoghi di cultura che, a suo giudizio, non riducono i contagi ma aumentano solo i disoccupati. A chiedere correzioni dell'ultimo DPCM sono anche l'opposizione di centrodestra e le regioni. Il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, invita però le forze politiche a tenere il dibattito a un livello civile perché, sottolinea, bisogna aiutare gli italiani ed evitare che qualcuno cavalchi la loro rabbia in maniera irresponsabile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora facciamo il consueto punto anche sull'andamento dell'epidemia nel mondo. Germania verso un lockdown light. A quanto si apprende, la cancelliera Merkel domani potrebbe decretare la chiusura di ristoranti e bar, nonché l'annullamento di tutti gli eventi pubblici. In Germania i casi nelle ultime 24 ore sono stati quasi 11.500, quasi 3.000 in più del giorno prima. Lockdown parziale che scatterà di certo in Russia domani, con i locali che resteranno chiusi dalle 23 alle 6 e la mascherina che andrà indossata in tutti i luoghi potenzialmente a rischio, dagli ascensori ai parcheggi, ai taxi e ai mezzi pubblici. In Russia 16.500 nuovi casi e 320 le persone morte nell'ultimo giorno, il numero più alto di vittime finora registrato dall'inizio della pandemia. Molto alti i decessi anche in Belgio, dove il Covid ha ucciso in media 50 persone al giorno tra il 17 e il 23 ottobre. Nuova stretta in arrivo anche in Francia, dove il ministro dell'Interno ha avvertito: bisogna aspettarsi decisioni difficili. Il tutto quando il vicepresidente della Commissione UE per la promozione dello stile di vita europeo, il greco Margaritis Kinas, è risultato positivo al coronavirus. Secondo gli ultimi dati OMS, il paese che ha fatto segnare il maggiore incremento giornaliero sono stati gli Stati Uniti, seguiti da Francia, India e Brasile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci occupiamo delle novità fiscali in arrivo, che vengono tutte raccontate nell'appuntamento, nel convegno annuale del Sole 24 Ore Telefisco. Dopo il boom di richieste a migliaia, secondo l'Agenzia delle Entrate, per il super bonus 110%, la maxi detrazione dedicata all'edilizia introdotta dal decreto rilancio, la notizia che sarà prorogata è estremamente importante e sono fiducioso, afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, intervistato durante lo speciale Telefisco, il webinar del Sole 24 Ore, che proseguirà a partire dal 24 novembre sulla piattaforma Smart 24 Super Bonus. Fraccaro sottolinea l'annuncio considerando che il governo si è espresso in favore dello spendere i soldi del Recovery Fund, la cui ripartizione avverrà prima della fine dell'anno, per partire già a gennaio con gli anticipi, con priorità sul super bonus. Non solo. Viene scritto e votato dal Parlamento che invita appunto il governo, impegna il governo a prorogare addirittura fino al 2024. E il successo del super bonus, cui sarà dedicato il 28 ottobre un inserto con il Sole 24 Ore, si vede nelle cifre delle prime due settimane, come segnala proprio il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Sono pervenute già oltre 2.000 richieste per un controvalore di crediti ceduti di circa 13 milioni di euro. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora una notizia che riguarda la scienza, perché dopo anni di indizi e ipotesi ora è ufficiale: l'acqua sulla Luna esiste davvero, la sua presenza è stata rilevata in modo inequivocabile per la prima volta grazie alle osservazioni del telescopio volante Sofia. Non solo l'acqua sulla Luna c'è, ma è anche abbondante. La conferma è arrivata da due studi, uno della NASA, l'altro dell'Università del Colorado. L'oro blu è stato individuato nel cratere Clavius, uno dei più grandi e antichi del satellite, grazie ad un Boeing 747 che ha volato ad alta quota con a bordo un telescopio a raggi infrarossi. L'acqua sulla Luna dunque esiste e in maniera molto più diffusa del previsto, non solo nelle zone più oscure e fredde dove precedentemente era stata rilevata, ma anche in quelle illuminate. È ancora presto per dire se gli astronauti potranno usarla per dissetarsi o per altri scopi, ma di sicuro questa scoperta dà un'importante spinta alla missione Artemis, a cui partecipa anche l'Italia, che intende portare il prossimo uomo e la prima donna sulla Luna nel 2024. Così qualche tempo fa Samantha Cristoforetti, al microfono di Maria Piera Ceci, aveva parlato del contributo italiano alla missione. Sto lavorando su un programma per contribuire allo sviluppo, alla fase ingegneristica di questo programma, che è una stazione spaziale che volerà attorno alla Luna, per quanto riguarda un habitat, quindi un modulo abitativo che farà parte di questa stazione orbitante. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 11 minuti, facciamo un piccolo break dopo la sintesi della giornata con le notizie principali, torniamo a effetto giorno con le altre notizie, ripartiremo dalle proteste di queste ore naturalmente, ma anche dalla possibilità, parleremo con un rappresentante dei medici di famiglia, la possibilità che si possa fare il tampone proprio dal medico, vedremo se questo avverrà, c'è un accordo che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore, quindi ci risentiamo tra poco. 349-238-6666. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Il presidente del Consiglio Conte alle categorie, in arrivo gli indennizi economici già oggi in Consiglio dei Ministri. Continuano le manifestazioni contro le chiusure, intanto oggi tassisti in piazza a Roma, domani la protesta nazionale dei ristoratori. Violenze e disordini serali nelle città, in azione ultra, giovanissimi e gruppi sparsi a Milano, un ferito e 28 fermati. Tredici e 15 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Dunque, come avete sentito dalla abbondante cronaca di queste ore, sono in corso e sono annunciate anche per le prossime ore manifestazioni, proteste di varia natura da parte di diverse categorie, dai commercianti ai titolari delle palestre, delle attività sportive che protestano. Ci sono anche i tassisti di mezzo contro le chiusure annunciate dal DPCM. È un discorso che si lega a quello delle manifestazioni notturne, ma che è molto distinto, perché qui non si tratta di casseur o di gruppi, diciamo, estremistici che vanno alla violenza cieca. Si tratta persone che chiedono delle risposte. Ne parliamo con Cecilia Manzo, che è docente di sociologia economica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Benvenuta. Buongiorno. Allora Manzo, perché è vero che ci sono gruppi estremistici che si, diciamo, innestano, no, su questa protesta, d'altra parte succede spesso che si cerchi così di alzare un po' il livello della tensione o comunque di sfruttare l'occasione per avere un po' di visibilità, ma il punto è che queste persone che hanno perso un reddito che è causato dalle chiusure sono infuriate in molti casi, anche perché rispetto alla prima ondata, questo va detto, quando fummo presi alla sprovvista, non era possibile pensare ad una reazione sanitaria organizzata. Questa volta la sensazione è forte che proprio questa mancanza di risposte strutturali che non sono arrivate, pensiamo alla capacità di aumentare molto i tamponi, di fare il tracciamento, di aumentare come promesso le terapie intensive negli ospedali, che ci obblighi poi a dover chiudere le attività. Da notare che in nessun altro paese in Europa si stanno chiudendo palestre, piscine, ristoranti, bar. Laddove ci sono misure più restrittive, come per esempio in Francia, la chiusura scatta alle 21, ma prima di questo orario i cinema, per dirne una, sono aperti. Io le voglio chiedere intanto quali sono, diciamo, anche, come dire, l'analisi specifica di questa protesta, perché ci sono anche delle ragioni legate per esempio al tempismo. Eravamo sull'orlo di una ripresa economica, questo ha aggravato il senso di frustrazione, immagino. Sì, di una mini ripresa forse meglio dire, perché l'estate, avevamo la fine del lockdown, è stato molto vicino all'estate, periodo che è stato un po' sospeso per tutti, non era un vero e proprio ritorno alla normalità, però sicuramente settembre aveva dato speranza o la l'idea di una piccola ripresa, di una riorganizzazione delle attività, si ritornava, abbiamo parlato tanto quest'estate di smart working, di gente che dalle città si è spostata verso altri luoghi, ha lavorato a distanza, si cominciava a tornare anche nei centri urbani e a vivere di nuovi luoghi in modo più vicino a quella che era la normalità di febbraio. E questo aveva fatto per a molti sperare la possibile ripartenza. E questo può generare un senso di frustrazione, lo dico per chi magari non ha in famiglia nessuno che è toccato economicamente direttamente in maniera netta, perché magari non ha un'attività commerciale, ha una pensione, uno stipendio fisso che non è cambiato. Perché avere la sensazione che le cose si stanno rimettendo in marcia e subito dopo ritrovarsi di nuovo fermi è peggio che non essere quasi mai ripartiti, forse, psicologicamente. Sì, sicuramente, quello ha un effetto. Poi la manifestazione, quelle che vediamo adesso della piazza, le piazze rappresentano un momento di comportamento collettivo, all'interno c'è un insieme molto eterogeneo, però sono comportamenti che si basano su dinamiche emozionali e su una sorta di sospensione anche di comportamenti normali. Quello che leghiamo appunto alle piazze è il momento di incertezza, anche rabbia, che vediamo legate a quelle delle misure. Molti ristoratori, palestre, il mondo della cultura ha cercato in questi mesi di organizzarsi attuando protocolli, restrizioni, chi in maniera più o meno attenta, e da un certo punto di vista alcuni di questi hanno visto svanire questo. Anche questo mi sembra un aspetto importante da non sottovalutare, cioè c'è stata tutta un'attesa in cui ad attività ferme si è dedicato del tempo a individuare protocolli, distanziamenti, misure di sicurezza, poi ci sono fatti degli investimenti, si sono comprate barriere di plexiglass, si sono spostati i tavoli, si sono dovuti licenziare dei camerieri, cambiare tutta l'organizzazione, si è appunto ripartiti, e poi tutto questo anche laddove non ci sono stati casi dimostrati, perché per esempio pensiamo alla questione delle palestre. Il Presidente del Consiglio Conte aveva detto, lei sorride perché effettivamente è un po' paradossale, verificheremo questa settimana come vanno le cose, se vengono rispettati i protocolli, poi senza, diciamo, dare conto di questa verifica si sono chiuse. Sì, sui dati diciamo che sono il grande punto interrogativo di tutti, nel senso ci sono dei dati e sono importanti quelli sui contagi, su una mappatura di come avviene il contagio i dati non sono al momento così solidi, ma anche gli eventi, se tutto cambia così velocemente che si affatica, riusciamo a leggere quello che sta succedendo. Una mappatura adesso di come ognuno di noi può entrare in contatto col virus richiede un'analisi, una mole di dati enorme. Però sappiamo che l'Istituto Superiore di Sanità analizza un po' questi dati, che ad esempio la diffusione maggiore, il contagio maggiore viene detto avviene in famiglia. Allora di fronte a questo caso e poi di fronte a questa spiegazione è più difficile in qualche modo giustificare il fatto che si fermino delle attività che sembrano non essere come dire, toccate, non essere focolai. Pensiamo ai ristoranti, non ci sono casi raccontati di cronaca o anche dalle epidemiologi che spieghino che i ristoranti sono un luogo dove ci si contagia. Però è visto come un momento in cui si abbassano le difese e simbolicamente leviamo la mascherina, e quello leggendo anche un po' di racconti che per adesso stanno girando su social network o blog, sì, c'è chi racconta che è stato sempre attento sul lavoro attento, ma al ristorante con l'amico fidato che o con il parente, penso, diciamo che c'è un po' la tendenza a, quando si è con amici, con persone che conosciamo bene, ad abbassare il nostro momento di difesa, quindi questo con l'estraneo siamo molto distanti, mascherina eccetera, però con la persona vicino a noi è come se in quel momento ci sentiamo entrambi immuni. Cioè l'illusione di presentarsi a un ristorante con degli amici dicendo siamo congiunti, ci mettono al tavolo insieme e poi senza mascherine stiamo per due ore anche un po' troppo vicini, questo è sicuramente sbagliato. Ha a che fare molto, anche io credo, col senso di responsabilità di ognuno di noi. Sappiamo che se non siamo veramente tra persone che fanno parte della nostra bolla rischiamo qualche cosa, e quindi lì è poi difficile, diciamo, individuare le responsabilità dei titolari dei ristoranti. Si è deciso a quel punto di tagliare, ripeto, però la stessa cosa non è stata fatta in nessun altro paese europeo. L'ultima cosa che le voglio chiedere però, dottoressa Manza, è questo: secondo lei che tipo di dinamica si può, può scatenarsi adesso nell'opinione pubblica che assiste a queste manifestazioni? Chiedo magari anche una sua valutazione personale. Tra crisi sanitaria e crisi economica, cosa temono di più in questo momento secondo lei gli italiani, anche proprio un suo punto di vista? Beh, dipende dove si vive, secondo me, dalla percezione che in quel territorio c'è del pericolo. L'abbiamo già visto nei mesi scorsi, chi aveva racconti, chi aveva il rumore delle ambulanze costante come sottofondo della sua giornata, ha avuto una reazione, anche un comportamento diverso rispetto ad altre zone dove sono mancati racconti perché c'erano meno contagi in quel momento. Quindi, al di là appunto delle misure istituzionali che tutti conosciamo, c'è una diversa percezione del pericolo data da una variabile che conta e conta molto, è il luogo dove ci troviamo. Grazie alla dottoressa Cecilia Manzo, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora, avremo modo ancora di raccontare di questi aspetti. Collegato a tutto questo c'è un settore in particolare come quello dello spettacolo, degli spettacoli dal vivo, che sappiamo adesso sono interrotti, ma anche in televisione, perché per esempio anche lo show musicale X Factor, che sta per entrare nella fase degli eventi teoricamente live, che non saranno così, ha presentato proprio oggi tutte le misure di sicurezza. E un grande show musicale, il più grande, Sanremo, ha presentato Marta Cagnola. Ciao, ben ritrovata Marta. Ciao Alessio. Proprio oggi delle novità, raccontaci tutto. Sì, proprio questa mattina ci sono state le due conferenze stampa, quella di X Factor per presentare i live, che non significa concerti, ma che significa che dopo le puntate registrate ci saranno quelle dal vivo, e in questo momento è ancora in corso la presentazione di Ama Sanremo. Cos'è Ama Sanremo? È una novità, una gara dei giovani che andrà in onda ogni giovedì in seconda serata, tra l'altro proprio in contemporanea X Factor, con la finale il 17 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo. Ma come mai sono state interessanti queste due conferenze stampa? Perché ovviamente il momento difficile della pandemia ha un grosso impatto sulle manifestazioni. X Factor ha dovuto cambiare tantissimo del progetto iniziale, si vedrà appunto da giovedì sera come è cambiato dagli anni scorsi per mantenere le misure di sicurezza, ma anche Sanremo, insomma, sta vivendo dei momenti difficili perché si sta lavorando in vista poi del festivalone. Proprio le qualche minuto fa sono Amadeus state spostate, allora, no? Sappiamo, sì, a marzo, ma allora, si conferma ancora l'evento col pubblico, sì, per ora. Allora, le date sono state già da mesi fatte slittare in avanti, cioè andrà dal 2 al 6 marzo, quindi è un mese in avanti, ma quando c'era stato questo spostamento la situazione comunque era diversa da quella di oggi. Poco fa è stato chiesto ad Amadeus se queste date sono confermate o se ci sarà uno slittamento, sì, di Sanremo. Lui dice che per il momento, rispetto a quello che è stato detto a settembre, non cambia nulla, cioè le date sono dal 2 al 6 marzo. Si sta lavorando esattamente come prima, per costruire un Sanremo in totale sicurezza, ma il punto si farà a gennaio, perché Amadeus dice a gennaio capiremo in che condizioni siamo, lo capiremo davvero a gennaio, e a quel punto, visto che Sanremo dovrà essere, cito quello che ha detto, un Sanremo di rinascita, di positività e di gioia e non certamente un Sanremo dimesso, ecco, a quel punto prenderemo le decisioni del caso, solo dunque a gennaio. Per il momento tutto confermato. Grazie Marta Cagnola. Staremo a vedere naturalmente. L'ultima notizia che voglio aggiungere è questa, e riguarda l'annullamento di un altro tour di concerti che era previsto per dicembre. Francesco De Gregori ha cancellato l'Off the Record Tour, che insomma era previsto a dicembre, quando non dovrebbero essere più in vigore le restrizioni di adesso, che scadono il 24 di novembre, però evidentemente si fa una previsione quantomeno difficoltosa, ma solo limitatamente a Francesco De Gregori. 13:28, ci fermiamo, torniamo tra poco, e poi, come annunciato, parleremo con il vice segretario del Sindacato dei Medici di Famiglia sul fatto se effettivamente sarà possibile andare dal proprio medico a vedere se uno ha il Covid oppure no, a fare, insomma, banalmente il tampone. A tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Il Presidente del Consiglio Conte alle categorie, in arrivo gli indennizi economici già oggi in Consiglio dei Ministri. Continuano le manifestazioni intanto contro le chiusure, oggi tassisti, domani protesta nazionale dei ristoratori. Violenze e disordini serali nelle città, in azione ultra e gruppi sparsi a Milano, un ferito e 28 fermati. Polonia, il Premier contro le proteste alle limitazioni all'aborto, annuncia l'invio dell'esercito. Il punto di Alberto Orioli. È vero che questa seconda ondata ha trasformato il noi dell'orgoglio dell'inno cantato dai balconi in un io rabbioso e frustrato. È vero che si uscirà dal virus solo se torneremo a sentirci comunità e a proteggerci a vicenda. Io copro te, tu copri me. Ma c'è qualcosa che non ha funzionato. Ad esempio, si sapeva fin dal marzo scorso che il punto debole sarebbero stati i trasporti pubblici nelle città una volta riaperte le scuole. Nessuno ha aumentato le corse dove possibile, nessuno ha usato i bus turistici bloccati dal Covid nei parcheggi, nessuno ha mobilitato i taxi o le auto a noleggio per creare un canale ulteriore di smistamento del traffico, nessuno ha creato flotte più ampie di car sharing, tutt'al più i bonus per i monopattini, e oggi ci troviamo così. Nessuno ha stabilito regole mirate per città e per piccoli centri dove la vita in realtà scorre secondo ben altre metriche e con assai minor disagio. Nessuno ha calcolato per tempo come scaglionare i flussi di traffico in fasce orarie differenziate, e ora si ha la sensazione che quella bomba batteriologica che sono metro, autobus e tram, lasciati al loro destino di strumento di contagio, si sia risolta con l'invito a stare tutti a casa. Con il coprifuoco, che è diventato anche un coprifuoco delle idee. Serve il noi, è vero, ma loro non hanno fatto tutto quello che dovevano. E allora, proprio sulla scia di quello che stava dicendo Alberto Orioli, il vice direttore del Sole 24 Ore, torniamo a parlare della risposta sanitaria all'emergenza Covid, perché se non hai una sufficiente struttura sanitaria non ti resta, l'abbiamo già detto, che chiudere le attività commerciali, economiche, che è quello che sta succedendo in Italia. Al momento, insomma, sembra di poter dire che l'impegno sul fronte sanitario del nostro paese non sia ancora arrivato al massimo rispetto anche al potenziale del nostro paese. Non sono state ancora approntate tutte le terapie intensive che erano state promesse, per esempio. I tamponi sono aumentati, ma non si è colta l'occasione del piano Crisanti, per esempio, di arrivare facilmente a 400.000 tamponi al giorno. Non ci sono ambulatori Covid, zone per l'isolamento. Parliamo adesso in particolare della vicenda dei tamponi con il vice segretario della Federazione Italiana Medici Medicina Generale, Domenico Crisarà. Benvenuto. Buongiorno. Allora, Crisarà, prima di parlare di questo, perché c'è un'interlocuzione tra voi e il governo sul fatto che i medici di famiglia possano effettivamente fare test insomma direttamente alle persone che ne abbiano bisogno, le faccio sentire invece cosa accade sul fronte del contact tracing, perché ci sono quasi 50.000 persone che hanno aderito al bando del governo per potenziare gli organici fino a 2.000 unità. Ce lo racconta Rosanna Magnano. Medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, studenti all'ultimo anno di infermieristica e amministrativi. Sono 49.000 gli italiani, in larga maggioranza donne, che hanno risposto al bando della protezione civile per 2.000 operatori che dovranno rafforzare l'attività di contact tracing. La paga oraria prevista va dai 15 euro per gli studenti ai 30 euro per i medici, passando per i 26 euro l'ora destinati a tecnici, assistenti sanitari e infermieri. Ma il sindacato degli infermieri Nursing Up contesta l'utilizzo degli studenti per un'attività delicata come il tracciamento dei contatti. Il presidente Antonio De Palma. Gli studenti non possiedono, a nostro parere, tutte le conoscenze, le capacità e le abilità che servono per svolgere questo tipo di attività. Questa attività potrebbe, a nostro parere, essere svolta dagli infermieri che attualmente non sono in forza negli ospedali, quelli che operano sul territorio, che potrebbero dare la loro disponibilità, ovviamente retribuiti per questo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, Crisara, uno dei nodi di questa risposta sanitaria è quello dei tamponi. Al momento, insomma, cosa succede se una persona ha sintomi lievi, per esempio, o ha avuto un contatto con un positivo e insomma, gli viene detto di stare in quarantena, di stare in isolamento, però non sarebbe più semplice poter sciogliere questo nodo che attanaglia un sacco di persone, creando ansia e anche immobilismo nelle attività economiche, facendo qualche tampone in più? Allora, intanto bisogna che si capisca bene qual è l'utilizzo e l'utilità del tampone. Allora, il tampone fotografa una situazione istantanea, nel senso che nel momento in cui io faccio il tampone, il risultato, se è negativo, vale per quel momento e solo per quel momento. Sì. Deve essere fatto in una situazione in cui debbano essere passate almeno 48-72 ore dal presunto contatto. E questo è chiarissimo. Perché altrimenti c'è una zona. Quindi va gestito in questi contesti. Non può essere gestito come una specie, mi passi il termine, di lascia passare. Sono a posto. No, un lascia passare no. Io non credo che nessuno voglia un lascia passare. No. Anzi, molti sono spaventati a fare il tampone perché temono di essere bloccati in caso di positività. Però altrettanti che hanno sintomi lievi o che hanno avuto contatti con positivi, sono storie che conosciamo tutti in questo momento, ce l'abbiamo attorno, restano nel dubbio. Farlo, ecco. Non farlo, farlo privatamente, facendo code. Ecco perché. Code negli ospedali dove ci si addirittura può contagiare, lo ha detto il direttore dell'ATS Milano. È una situazione un po' paradossale. Certo, ecco perché bisogna, prima di tutto, con calma e con precisione, rivolgersi al proprio medico. Il problema diventa, a questo punto, diventa che organizzazione territoriale i medici di famiglia hanno per supportare e sopperire a questo impatto, che non è più, diciamo, un impatto come quello dello scorso primavera, inverno primavera, ma è molto più alto in termini di ansia sociale, in termini di risposta. Certo. Ed è il motivo per cui stiamo lavorando in questi giorni. Noi siamo in una condizione come quella più o meno descritta prima per i trasporti dal direttore del Sole 24 Ore. Cioè, non si può pensare che un'attività che è stata praticamente mai incentivata, e non parlo economicamente, parlo in termini di strutture personali. Sì. In questo caso dei medici di famiglia, possa farsi carico poi, di questa cosa all'improvviso. Improvvisamente, come se fosse una favola di Andersen col bacio della principessa. Assolutamente. Adesso le chiederò anche, Crisara, di così aggiornarci su quello che so che è un incontro che ci sarà oggi col governo, con qualche rappresentante, insomma, per valutare proprio la possibilità che siano i medici di famiglia a fare dei test rapidi. Ci dirà lei esattamente di cosa si tratta da questo punto di vista, perché torno a dire, insomma, la possibilità di dirimere questo dubbio per molte persone è importante. Io le faccio un esempio: vicino a casa mia c'è una farmacia che fino a qualche giorno fa faceva i tamponi a domicilio privatamente, adesso questa possibilità non c'è più. Io ho la sensazione che, dato che i laboratori sono sempre quelli a disposizione, la capacità di processare i tamponi è quella, la curva epidemiologica è salita, naturalmente si sta stringendo sulla possibilità di fare i tamponi, però questo non è un bene. In Germania se ne fa 1 milione al giorno e non ci sono limitazioni alle attività di nessun genere. Guardi, io lavoro in Veneto, a Padova, quindi abbiamo anche il nome che inizia con le stesse prime tre consonanti. Sì. Per cui la questione dei tamponi per noi è una questione importante. Noi credo che siamo stati la prima regione in Italia in cui sono stati affidati tamponi rapidi ai medici di famiglia. In questo momento, in modo volontario, quasi 700 medici di famiglia nel Veneto fanno i tamponi presso i propri studi. Quindi io sono perfettamente d'accordo con lei. Tra l'altro ci serve anche come dato epidemiologico, oltre che come dire rassicurazione sociale. Non c'è dubbio. Però la faccenda è che, ripeto, come il discorso dei datori, il territorio nazionale non è nelle condizioni, se non si prendono provvedimenti sì, urgenti, resistenti urgenti, ha le condizioni di sopperire a questa pressione. Devono cambiare chiaramente le linee organizzative, deve essere creata la condizione affinché non con un sovraccarico della farmacia o del medico si vada a creare un ingorgo, ma che si crei la possibilità invece di farlo. È ottimista sull'incontro che c'è con i rappresentanti del governo? Io sono molto ottimista su questa cosa, perché soprattutto dal ministro c'è grande sensibilità e anche dal commissario Arcuri. Quindi le possiamo immaginare che nei prossimi giorni questa cosa avvenga anche in altre regioni, che si possa fare il tampone, il test, un test rapido, il tampone, insomma non so esattamente poi di quale test, a proposito di quale test stiamo parlando, test rapido. Quindi non il tampone molecolare, bensì... No, il tampone molecolare, perché il tampone molecolare ha dei problemi di processazione, okay, che è bene utilizzare in seconda battuta. Quindi test rapidi dai medici, staremo a vedere. Io la saluto Crisalà perché siamo arrivati lunghi coi tempi, grazie comunque, cioè, abbiamo capito che c'è una possibilità in questo senso, ma è notizia che arriverà, io credo, in giornata. Velocissimamente adesso, cosa ci attende invece per la giornata sportiva? Carlo Genta. Ciao Alessio, ciao a tutti. Beh, ci attende la ripresa delle Coppe Europee dopo che ieri si è chiusa la giornata di campionato col 3-3 di San Siro tra Milano e Roma. Ripresa delle Coppe Europee, oggi gioca l'Inter in trasferta con lo Shakhtar Donetsk 18:55 e poi Borussia e poi giocherà la Lazio domani, attenzione perché la Lazio, sì, stavo guardando ora la situazione, ci sono problemi di positività per forse Immobile e attesa per i tamponi di altri 4 giocatori laziali. La Lazio deve partire per Bruges, però è alle prese con questi problemi che sono ormai consueti. Domani c'è anche Juventus-Barcellona, lo ricordo, e poi sempre oggi invece in serata Atalanta-Ajax, quindi riprendono le coppe con i soliti problemi all'ordine del giorno. Vedremo, grazie Carlo per ora, vedremo quali saranno di queste partite effettivamente in campo, però insomma i protocolli consentono di giocare fino a un elevato numero di giocatori positivi, per cui dovrebbero esserci queste partite in televisione. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.